Da vecchi si dimentica. E come gli altri, egli dimenticherà tutto il resto, ma ricorderà con grande fierezza le gesta di quel giorno. Noi pochi, noi felici pochi, noi manipolo di fratelli, poiché chi oggi verserà il suo sangue con me sarà mio fratello, e per quanto umile la sua condizione sarà da questo giorno elevata, e tanti gentiluomini ora a letto in patria si sentiranno maledetti per non essersi trovati oggi qui, e menomati nella loro virilità, sentendo parlare chi ha combattuto con noi questo giorno di San Crispino! Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Va detto, è stato proprio un gran colpo di invidia, forse per l'amore che iniziava a unirci. Non era neppure che stesse dietro a lui. Invidiato una situazione che avrebbe voluto per sé. Presi carta e penna e scrissi chiedendo a Paola il motivo del comportamento. Mi rispose: niente di personale, solo un colpo furibondo di invidia. Storie di grandi amori giovanili e di esploratori d'altri tempi in una puntata tutta dedicata al vizio dell'invidia. Era da tempo che aspettavo il momento giusto per usare la citazione che abbiamo usato in apertura di questa puntata. Avete sentito la voce di Kenneth Branagh, o meglio, come sempre succede quando siamo in questi casi, del doppiatore di Kenneth Branagh, il doppiatore italiano di Kenneth Branagh, che recitava quel pezzo meraviglioso, il monologo di San Crispino, quello di Noi pochi, noi felici pochi, è tratto da Enrico V di Shakespeare, ovviamente, ma messo in scena, messo in realtà in cinema, in pellicola, proprio da Kenneth Branagh, che fa la regia e fa anche l'attore principale, cioè interprete Enrico V. È un pezzo straordinario. Quello che sta per succedere è che sta per esserci una battaglia in cui le truppe di Enrico V, il re, sono pochissime, sono affamati, sono di fatto a pezzi, perché sono giorni che non dormono, mangiano poco, sono al freddo e stanno per incontrarsi in battaglia contro un esercito che è molto più forte, molto più preparato e molto più in salute. Insomma, il morale è davvero bassissimo, e quello che lui fa, quello che Enrico V fa, o meglio che Shakespeare fa fare ad Enrico V, è fargli fare un discorso, un monologo. Oggi si chiamerebbe uno speech, oggi sarebbe uno speech motivazionale, lo sarebbero probabilmente nelle convention aziendali. Ci apriamo con un bello speech motivazionale in modo da tenere su il morale della truppa, e lui fa esattamente questa cosa, cioè fa un discorso meraviglioso che è famoso come il discorso di San Crispino, in cui in sostanza dice: è vero, noi siamo pochi, ma se noi ci mettiamo tutto il nostro, se ci mettiamo tutto il possibile, vinceremo questa battaglia. E a casa, quelli che non sono qui oggi, quindi in questo punta sull'invidia di quelli che non sono tra quei felici pochi, quando si ricorderanno di noi, di questo manipolo di coraggiosi, di questi felici pochi, si sentiranno addirittura menomati nella loro virilità, lui dice. Quindi dice: ci invidieranno talmente tanto, perché noi saremo quelli che avranno fatto una grande impresa. Apriamo con questo pezzo, se avete voglia andate a cercarvelo, è un po' più lungo, un po' più composito il monologo, ed è bellissimo ovviamente, anche soprattutto il testo, se avete voglia di leggervelo o di scorrervelo, il monologo di San Crispino di Enrico V. Vi dicevo, raccontiamo storie di invidia oggi, due storie molto diverse tra di loro, come sempre facciamo. Una arriva dal più o meno un secolo fa, anzi più di un secolo fa, e racconta di invidia tra popoli, cioè una sorta di gara a chi è il più bravo esploratore del momento, ma è una gara che non è solo tra Shackleton, che è il protagonista di questa storia, e Amundsen o gli altri esploratori che fanno parte del racconto che faremo tra poco. Diventa una vera e propria gara tra i popoli, cioè tra chi è il paese che è il più bravo ad avere e a fornire degli esploratori al mondo, cioè della gente in grado di conoscere parti del mondo inesplorate. L'Inghilterra all'inizio del secolo scorso era senza dubbio la terra che ne forniva di più, ma a un certo punto si era affacciato così sul palcoscenico delle esplorazioni la Norvegia nella fattispecie, e quindi quella che doveva essere una semplice esplorazione, quella di Shackleton e dell'Endurance, di cui vi racconteremo uno stralcio in questa puntata, storia bellissima, magnifica, molto complessa, ve ne racconteremo solo uno stralcio, vi dicevo, diventa non solo una vera e propria campagna esplorativa, ma quasi una corsa a chi arriva prima. E invece la prima storia, quella con cui apriamo adesso, è la storia di Federica e racconta di un piccolo amore giovanile quasi rovinato proprio per un colpo di invidia. Mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'Ombra. Era finito da poco il mio primo anno di liceo, che essendo classico, per un retaggio del passato, si chiamava quarta ginnasio. Partire in quarta quando sei in prima sembra demenziale, ma eravamo nel 72 e funzionava così. Avevo 15 anni, mi ero innamorata di un compagno di classe e rimasto orfano della mamma l'anno precedente, il che lo rendeva ai miei occhi assolutamente bisognoso d'affetto. Era bellissimo, in assoluto il più bel ragazzo della classe. Biondo, con il ciuffo e due laghetti azzurri al posto degli occhi, un po' schivo. Anche un bel codazzo di ragazzine procaci che sbavavano per lui lo trovavano altrettanto bisognoso di affetto. In classe eravamo 33, maschi e femmine per la prima volta insieme, dopo le scuole medie, che erano state in classi monogenere. Io ero molto carina, almeno a detta degli altri. Alta come tutti nella mia famiglia, magra, bruna, capelli lunghissimi e dritti con la riga in mezzo, in perfetto stile figlia dei fiori anni 70. E due occhi scuri allungati, degli occhi che ridono. Dunque, a 15 anni io ero la maggiore di tre figli, piuttosto estroversa, però anche una ragazzina molto posata, ecco, con la responsabilità di due fratellini e dei genitori che lavoravano molto. Ero per fortuna anche in una famiglia agiata e vivevo appieno anche la bella vita degli anni 60, 70. È stato un bellissimo periodo della mia vita. La cosa straordinaria era che tra tutte a lui piacevo io, e proprio tanto. Stava per nascere un grande amore adolescenziale, solo che io dovevo partire per il campo scout e quindi, poiché allora si era molto per Benino, ci saremmo rivisti dopo le vacanze estive, visto che lui sarebbe partito con suo padre proprio quando io sarei tornata dal campo. Io adoravo essere una guida, ero capo squadriglia dei koala e la vita del campo mi permetteva di vivere un'esperienza di autonomia e di libertà che mi faceva sentire totipotente. Amavo le altre guide, stavo bene con tutte. Suonavo la chitarra e cantavamo a squarciagola Battisti e De André. Un pomeriggio ero distesa sulla brandina militare con le mie compagne di tenda, nell'ora di riposo delle attività all'aria aperta. Stavamo ultimando la costruzione della cucina da campo ed eravamo stanche. Il campo si trovava in Val Nambrone, nei pressi di Pinzolo, Trentino. Era una giornata bellissima, dopo alcuni giorni di pioggia. Dalla vicina Val di Sole, lui era partito a bordo di una Lambretta 50, appartenuta a sua madre, per venire a trovare me al campo. Trascorreva qualche giorno presso gli zii materni. Non aveva detto loro che avrebbe affrontato un paio di passi alpini per andare dal suo piccolo, grande amore. I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, Thursday I don't care about you. Stay in bed on Thursday. Quando arrivò, dopo un paio d'ore di viaggio a 40 km orari, la prima ragazza che incontrò fu Paola, una comune compagna di classe, guida come me, che lui salutò con educazione ma senza grande interesse, chiedendo invece dove fossi io. Paola sapeva perfettamente che ero in tenda, ma gli rispose prontamente che ero andata nel bosco con la mia squadriglia a tagliare i pali necessari alla costruzione del tavolo e quindi sarei rientrata più tardi. Lui rimase malissimo, rimontò subito sul lambrettino e tornò mogio a casa, dove si prese una lavata di capo dagli zii che lo davano per disperso. Ognuno in ferie con la propria famiglia, ci ritrovammo poi a settembre, poco prima della ripresa della scuola. Io non vedevo l'ora di incontrarlo. Non ci vedevamo da 2 mesi. Non ci eravamo neanche dati il primo bacio. Ci stavamo aspettando. Beh, l'incontro dopo la vacanza è stato proprio di quelli che ti danno le farfalle nello stomaco, perché era il primo amore, eravamo 2 ragazzini, non c'era neppure questa possibilità di comunicare che i ragazzi hanno oggi con telefonini, quindi o ci si scriveva lettere oppure si aspettava. Erano anche contate le telefonate, perché non essendo lui della mia stessa città dovevamo parlarci con i minuti contati, perché si andava in extraurbana e quindi i genitori ci facevano stare attenti anche a questo. Lui mi raccontò la sua estate e io la mia stupenda esperienza di campo estivo. Nessuna reazione, un muso lungo che non mi spiegavo, gli occhi lucidi. Cosa c'è? Gli chiesi. Lui mi rispose amareggiato che non l'avevo ringraziato di essere venuto a trovarmi al campeggio, tra l'altro inutilmente. Paola non mi aveva detto nulla. E allora presi carta e penna, facevamo così allora, ci scrivevamo, e chiesi a Paola il motivo del suo comportamento. Mi rispose la settimana successiva con un laconico biglietto che diceva: niente di personale, solo un colpo furibondo di invidia. Lui ed io ci mettemmo insieme il primo giorno della quinta ginnasio e per 4 anni fummo inseparabili e siamo rimasti amici per tutta la nostra vita. Paola ed io siamo state da allora sempre separate. Di oggi, ormai l'avete capito, è dedicata all'invidia, e quando raccontiamo storie di invidia davvero le storie si dividono più o meno in due categorie, le macro storie di invidia, quelle in cui si creano dei danni enormi e le persone soffrono magari per una vita intera, e invece quelle minuscole, quelle piccole, quelle in cui qualcuno fa qualcosa anche di piccolo ma anche di molto cattivo. Quando c'entra l'invidia più o meno è sempre così, e le cose magari non si rovinano per una vita intera o per stagioni della vita, però per qualche mese sì, esattamente quello che è successo a Federica. Pronto, ciao Federica, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Benissimo, grazie. Oh, brava, mi è piaciuto questo benissimo, mi piace molto. Senti, risale a un po' di anni fa questa storia, però tu te la ricordi, mi sembra di capire, molto molto bene. Eh sì, la ricordo io e la ricorda anche il mio fidanzatino di allora. Col quale avete un ottimo rapporto, dicevi? Sì, perché poi si è creato un gruppo della classe che ha mantenuto l'amicizia per molti anni e quindi abbiamo avuto tante occasioni per poterci ritrovare. Ma ad esempio... Noi facevamo parte di quella fetta di persone che dovevano incontrarsi per per parlarsi, non c'erano telefonini e tante altre cose. E succede ancora? È una cosa che accade ancora? Sì, sì, qualche volta ci troviamo, sì, è sempre un bel rapporto. Quindi lui sa che stiamo raccontando questa storia oppure... Lo saprà. Lo saprà, perfetto. Lo saprà, magari per il podcast. Sì, brava. Senti, invece, la prima cosa che mi è balzata all'occhio, sin da quando ho letto la prima volta la tua storia, è questo termine che non si usa tantissimo. Cioè tu dici, mi piaceva tantissimo fare la scout, mi piaceva tantissimo essere una guida. La sensazione di libertà e l'autonomia mi faceva sentire totipotente. Io ti giuro che ho dovuto cercarla, la definizione di totipotente. Ce la dici esattamente cosa significa e come ti è uscita questa parola? Beh, ti dava la possibilità di, prima di tutto, di avere capacità manuali, di essere immersa nella natura e di riuscire a capire che potevi sopravvivere, che l'esperienza che stavi facendo ti avrebbe concesso la possibilità di sopravvivenza perché ci si sapeva arrangiare. Questo è un senso di potenza che per quegli anni, quando eravamo anche abbastanza controllati in famiglia, era veramente impagabile, secondo me. Ma tu hai fatto studi scientifici o biologici? No, letterari. Allora sì, deriva da quello, perché io appunto avevo cercato totipotente ed è riferito all'embriologia animale, cellule totipotenti, che hanno la capacità di produrre un embrione intero, insomma, che dà questa grande potenza. Mi aveva molto incuriosito quel termine lì. Senti, invece, al di là di questo, lei invece, l'amica dell'epoca, l'hai più rivista, sentita, lei ti ha solo risposto: è stato un colpo di invidia, punto? Questo bigliettino, non molti anni fa, l'ho ritrovato all'interno di un diario scolastico. Pensa a te, quanto mi ha segnato, addirittura da conservarlo. Quindi ce l'hai ancora? Così, e poi secondo me è rimasta una persona che allora ha coltivato le grandi invidie sociali più avanti nella vita. Hai questa sensazione? Sì, ho questa impressione. Tu che cosa hai fatto nella vita, Federica? O cosa fai? Ho insegnato lingue e alla scuola media e poi mi sono occupata di amministrazione nella mia città. Tu hai avuto figli? Ne ho quattro. Ne hai quattro? Fanno gli scout? Li spingi a farlo? No, sono stati tutti scout. È un'esperienza talmente formativa, talmente importante che... Da genitori scout spesso i figli da genitori scout discendono figli scout. Sì, perché io poi alla fine ho sposato il mio capo scout. Ma dell'epoca? Dell'epoca, sì. Ma è una storia, questa è un'altra storia che ci devi raccontare, sì, in qualche modo. Sì. Ma lui era presente, dunque? Era lì in quel luogo? No, non era in quell'occasione. Ok, no. L'ha incontrato era più tardi. Era più grande di me e questa è una cosa che è venuta... anni dopo. Federica, ti ringrazio per la chiacchierata e per la storia. In bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a te anche per la trasmissione, bellissima. Grazie, ciao Federica, grazie. A presto. Ciao. E ora sentiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. La prossima storia che vi raccontiamo non è una storia di invidia personale, lo dicevo in apertura. Abbiamo immaginato che questa sia una storia di invidia collettiva, se esiste, la sensazione è quella. La chiamiamo così, anche se in questo caso appunto questa forma di invidia è stata da sprone per una delle più grandi avventure del secolo scorso, quella che ha portato un uomo e i suoi 27 membri dell'equipaggio a raggiungere confini che l'essere umano non aveva mai toccato prima. Sto parlando della storia di Ernest Shackleton e dell'equipaggio della nave Endurance. State con noi. L'ordine di Shackleton di abbandonare la nave mentre dava inizio ad una delle più grandi avventure nei ghiacci polari poneva fine allo stesso tempo a una delle più ambiziose spedizioni antartiche. La meta della sua imperiale spedizione transantartica, come dice il suo stesso nome, avrebbe dovuto attraversare via terra il continente antartico da ovest a est. Il fatto stesso che tale impresa, dopo il fallimento di Shackleton, non abbia trovato chi la ritentasse per 40 anni, sta a dimostrare quanto fosse ardua. Si trattava della terza spedizione che Shackleton intraprendeva in Antartico. Vi si era recato per la prima volta nel 1901 come membro di un'altra spedizione, guidata da Robert Falcon Scott. Sei anni dopo, nel 1907, Shackleton guidò la prima spedizione che aveva come meta il Polo Sud. Con tre compagni riuscì a portarsi a meno di 200 km dalla meta, ma fu costretto a tornare indietro per mancanza di provviste. Il viaggio di ritorno fu una corsa disperata contro la morte. La squadra riuscì a salvarsi e Shackleton fu accolto in Inghilterra con gli onori riservati agli eroi dell'impero. Fu nominato cavaliere del suo re e ricevette decorazioni da quasi tutti i più importanti paesi del mondo. Scrisse un libro, tenne conferenze nelle isole britanniche, negli Stati Uniti, in Canada e in gran parte d'Europa. Ma il suo pensiero tornava costantemente al Polo Sud, all'Antartico. Era arrivato vicino alla meta e sapeva che si trattava di una semplice questione di tempo perché qualche altra spedizione toccasse la meta che a lui era stata negata. Già nel marzo del 1911 aveva scritto così alla moglie: «Un'altra spedizione non avrà molto significato a meno che non attraversi tutto il continente antartico». E così accadde. Tra la fine del 1911 e l'inizio del 1912 ci fu una vera e propria gara a raggiungere il Polo Sud, e a vincerla fu il norvegese Roald Amundsen, che ci arrivò un mese prima di Robert Falcon Scott. Ma la cosa ancora più terribile fu che Scott e i compagni di viaggio, stremati dallo scorbuto, morirono sulla via del ritorno. Quando la notizia giunse in Inghilterra, il paese ne fu sconvolto. Il dolore per la perdita del valoroso esploratore e dei suoi compagni fu ancora più acuto per il fatto che gli inglesi, il cui record nel campo delle esplorazioni non era mai stato eguagliato da nessun altro paese al mondo, dovevano accontentarsi di un umiliante secondo posto. A questo punto, il piano di Shackleton per la sua spedizione venne affrettato. Shackleton premette su quella forma di invidia nazionale del popolo inglese per sollecitare la raccolta dei fondi, insistendo con vigore sul prestigio inglese nel primato delle scoperte sul pianeta, facendone lo scopo principale della sua spedizione. Iniziò la ricerca degli uomini utili alla sua spedizione pubblicando un annuncio sul Times di Londra che diceva così: «Cercasi uomini per viaggio rischioso, paga bassa, freddo glaciale, lunghe ore di completa oscurità, incolumità e ritorno incerti». Risposero in migliaia. Alla fine ne scelse 27. «Dal punto di vista sentimentale», scrisse sul suo diario, «questo è l'ultimo grande viaggio polare che resta da compiere. Sarà un viaggio di gran lunga più importante di quello al polo e ritengo che sia compito dell'Inghilterra a scriverlo alla propria storia. Perché siamo stati battuti al polo nord e abbiamo dovuto accontentarci di un secondo posto al polo sud. Ora rimane soltanto il più lungo e straordinario di tutti i viaggi, la traversata del continente antartico». L'idea di Shackleton era di condurre una nave nel mare di Weddell, un braccio di mare sotto la punta più a sud del continente africano. E lì sbarcarci una squadra di 6 uomini, con slitte e 70 cani. Più o meno contemporaneamente una seconda nave avrebbe dato fondo nel mare di Ross, ossia dalla parte opposta del continente rispetto al polo sud. La seconda nave avrebbe sbarcato una squadra che avrebbe creato dei punti di rifornimento sulla rotta della squadra con le slitte e i 70 cani, in modo che potessero viaggiare leggeri, sapendo però di avere cibo sul loro percorso. Una volta raggiunto il polo sud, avrebbero proseguito verso est, continuando a sfruttare i punti di ristoro creati dalla seconda squadra e proseguendo spediti fino al mare, in modo così da compiere quella che sarebbe stata la prima traversata del continente antartico. Tale era il piano sulla carta, ed era un piano tipico di Shackleton, deciso, audace e semplice. Egli non aveva il minimo dubbio che la spedizione avrebbe raggiunto la meta. La storia ci racconta che non andò proprio così. Once I hoped to seek the new and unknown. This planet's overrun. There's nothing left for you or for me. Andò proprio così, la storia racconta una storia diversa e l'abbiamo letta e l'abbiamo scoperta grazie a questo libro straordinario pubblicato da Thea in Italia di Alfred Lansing, si intitola Endurance, l'incredibile viaggio di Shackleton al Polo Sud, perché quello che succede da lì in avanti è una storia incredibile. La vera avventura non diventa più l'esplorazione del Polo Sud, cioè l'attraversamento di tutto quanto il continente antartico, diventa una lotta per la sopravvivenza. E la cosa incredibile è, dopo 2 anni a temperature tra i 20 e i 30 gradi sotto zero, con la notte artica che non lascia un'ora di luce per mesi e mesi, Shackleton riesce a portare a casa tutti e 27 i suoi uomini vivi. È una storia incredibile che magari speriamo di raccontarvi più avanti. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. In una puntata che è dedicata al vizio dell'invidia vi abbiamo raccontato poco fa la storia di Ernest Shackleton, o meglio un pezzo della storia di Ernest Shackleton, perché è molto lunga e molto complessa oltre ad essere straordinaria, solo l'inizio, cercando di mettere diciamo in luce come in qualche modo una sorta di invidia tra i popoli, in quel caso erano l'Inghilterra, che era l'Inghilterra delle grandi esplorazioni, e la Norvegia di Roald Amundsen, che aveva per primo scoperto il Polo Sud, avevano mosso alle grandi scoperte dell'epoca, no? Una sorta di invidia sana, direi, da questo punto di vista, che faceva partire una vera e propria gara alle esplorazioni. Cercando di immaginare questa puntata, cercando di dare una rotondità a questa puntata, Anita mi diceva: ma effettivamente le grandi esplorazioni oggi non hanno più a che fare con il nostro pianeta, che è tutto scoperto, hanno a che fare con lo spazio. E abbiamo trovato, come sempre, insomma, speriamo come sempre, in questo caso lo è sicuramente, la persona giusta per capire come le forze in terra muovano le gare nello spazio. Lui è ingegnere aeronautico ed è autore di un libro pubblicato da Rubettino che si intitola Geopolitica dell'esplorazione spaziale, la sfida di Icaro nel terzo millennio. L'ingegner Marcello Spagnuolo. Ingegner Spagnuolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Grazie per essere qui innanzitutto. Grazie a voi per l'invito. In quale modo, andiamo subito al cuore della situazione, in quale modo la gara verso la conquista dello spazio è in realtà una gara per il potere sulla Terra? Ma guardi, l'esplorazione dello spazio nasce nel secondo dopoguerra del secolo scorso, sì. E nasce anche come conseguenza del bipolarismo mondiale, del bipolarismo geopolitico mondiale, che si esplicita con la guerra fredda tra gli Stati Uniti e con l'Unione Sovietica. È un confronto politico, militare e anche tecnologico, e la conquista, o perlomeno l'esplorazione dello spazio, lo sbarco sulla Luna, la conquista della Luna, rappresentano proprio l'apice mediaticamente visibile per tutti quanti di questo confronto politico, e quindi diciamo il nuovo secolo è stato segnato da questa vittoria degli Stati Uniti, che poi dopo hanno ribaltato quella che era una corsa a due in realtà in una attività di cooperazione, perché poi con lo Space Shuttle e poi con la Stazione Spaziale Internazionale, che è ora in orbita e anzi in questo momento è comandata da un nostro astronauta, Luca Parmitano, certo. E gli Stati Uniti in realtà hanno fatto un'operazione di geopolitica di collaborazione, inglobando russi, canadesi, giapponesi, europei, indiani in questo progetto spaziale, però sempre controllato da loro. A questo punto però c'è un nuovo diciamo player in campo, che è la Cina. Esatto. La Cina è un nuovo player in campo ed è un player che sta cambiando il paradigma. Molti osservatori pensano che questo nuovo player possa dar luogo a una sorta di nuova guerra fredda, no? In realtà lo spazio, l'esplorazione spaziale rappresenta un elemento mediaticamente visibile, perché la Cina punta all'esplorazione spaziale per farne un veicolo sicuramente di proprietà, ma anche un veicolo di potenza, perché di potenza politica, di potenza militare, perché non disdegna di attuare operazioni spaziali a vocazione militare, come quindi, del resto non lo disdegnano neanche Stati Uniti o Russia d'altra parte. A questo proposito, ingegner Spagnuolo, se negli anni 70, come ci diceva, l'obiettivo delle esplorazioni spaziali era la Luna, oggi l'obiettivo delle esplorazioni spaziali qual è? Questa è una bellissima domanda, perché perché in realtà si è spinti a immaginare delle missioni su Marte, e ancora oggi si parla di Marte come la prossima frontiera, ma in realtà Marte sconta dei problemi di tecnologici per arrivare fin lì, ci vuole troppo tempo, è ancora complicato. La Luna invece sta tornando a essere un obiettivo. Oggi c'è solo la Stazione Spaziale Internazionale americana, sostanzialmente russa e americana, però sostanzialmente americana, ma dal 2023 dovrebbe esserci anche una stazione cinese, che i cinesi stanno costruendo, mentre invece l'amministrazione americana dichiara di voler gradatamente dal 2023 diminuire i fondi per l'attuale stazione e sta investendo molto in una stazione